Ecco, noi Simone Ferretti, uno dei curatori dell'iniziativa La Memoria a Cava di Roselle a Grosseto, il prossimo 2 agosto. Simone, ben trovato. Voi ben trovati. La Memoria, di cosa si tratta? Tratta di una serata nella quale presentiamo il risultato di un bando letterario dal titolo L'Identità, che è un bando letterario che ogni anno facciamo come Festival Resistente, e della proiezione di un documentario che si intitola Beo, della regia di Stefano Viali e Francesca Pinani. Ci racconti un po' la storia di questo bando, insomma, i lavori che sono arrivati? Dico, noi come Festival Resistente ogni anno mettiamo insieme un bando letterario cercando un po' di accompagnare a varie tematiche che seguono le iniziative del festival stesso. Questo è il quarto bando letterario e il tema, la base delle opere è stato quello dell'identità, individuando con questa da una parte, diciamo così, la dimensione sul quale il festival si muove, Sì. quindi l'identità antifascista, dall'altro lato riuscire a capire come molto spesso le identità diventano muri nelle quali la nostra società si va a scontrare, insomma, partendo da alcuni temi identitari che diventano escludenti. Penso appunto pure agli ultimi fatti di cronaca rispetto alla presunta italianità o meno, che rappresentano sicuramente all'oggi un tema centrale sul quale credo che ci sia la necessità di riflettere. Partivamo dall'identità un po' per analizzare e soprattutto parlare di quella modernità liquida di cui parlava Bauman e nelle quali secondo noi sempre di più andiamo a incrociarci. Per cui identità che in realtà devono essere visti come qualche cosa di fluido, come pluridentità, non identità escludenti, ma identità che vanno ad aggiungere, vanno a crescere. Quello che vediamo purtroppo oggi è tutt'altro, e le identità diventano escludenti, e in qualche modo fittiziamente si cerca di ritrovare delle identità per sentirci più sicuri, quando invece dovremmo vedere di allargarci al mondo intero. E in questa serata mettiamo insieme pure un video, un film, un documentario appunto di Stefano Viale e Francesca Pirani che parla di una storia. E in questo senso parla di un mondo un po' lontano, di un partigiano delle colline di Montefeltro, di una persona che, insomma, che ha vissuto la resistenza, che è stato partigiano e ci racconta la sua vita. Pensiamo che anche analizzando queste vite riusciamo un po' meglio ad approfondire questo tema sull'identità, Sì. appunto. Simone, quanti lavori vi sono arrivati e che impressioni vi siete fatte? Senti, siamo riusciti ad arrivare all'incirca ad un centinaio di opere Ah, beh. da tutta Italia che sono state suddivise, in prosa e in poesia. E alla fine, diciamo così, sono state pubblicate 26 opere di prosa e all'incirca uguale 28 opere di poesia. Siamo partiti, diciamo così, come molto spesso lavoriamo sul territorio, e quindi le prime edizioni avevano soprattutto degli scrittori locali. In realtà siamo arrivati a oggi ad avere uno scenario nazionale che ci fa pensare che sia la strada giusta. Per cui una serata un po' per confrontarci, per fare il punto della situazione e anche per rilanciare tutto un lavoro che ci vedrà da qui al prossimo anno con la costruzione del 21° Festival della Resistenza. Bene, per saperne di più ci dai riferimenti web? Quanto all'interno della pagina Facebook del Festival Resistente, per cui Festival Resistente Arci e ci trovate, o altrimenti nel nostro sito internet www.festivalresistente.it. Bene, e allora ricordiamo l'appuntamento con l'iniziativa dal titolo La Memoria a Cava Roselle, Grosseto, il prossimo 2 agosto. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Simone Grazie. Ferretti. Simone, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a voi e a presto. Buona serata. Ciao.